Informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Dimmi dove sei. Dimmi cosa c'è. Devi studiare. Hai da fare. Non mi chiami mai. Non mi chiami mai. Collegato. Scollegato. Messaggiato. Commentato. Sono notti che sono sveglio. Che ti cerco in ogni sito. Continuiamo a rimandare. Quante cose avrai da fare. Aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi. Wikipedia, l'ho finita. Google Art, l'ho già installato. Vorrei solo darti amore, ma tu hai sempre da studiare. Non mi importa cosa pensi, l'altra sera per errore. Dopo giorni che ti cerco, tu mi hai un po' disfatto il cuore. Ma non era colpa tua. Sì, ciao. Aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi, aggiungiscimi.